Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Oh, meno male che domani c'è un peggioramento meteorologico, se no stavamo in pensiero. Maggior ragione per godersi una bella serata, no? Oggi giornata, per così dire, di primavera, seppur leggermente velata, ci auguriamo. Sicuramente in musica lo è. In musica lo è per appassionate e appassionati, curiosi, chi ha voglia, come dico di solito, di alzare l'asticella nell'ascolto, chi ha voglia di ricercare nell'emozione, chi ha voglia di comunicare, ascoltare e nello stesso tempo sentir esprimere dentro di sé quello che è il sentimento toccato da alcune corde, che le sonorità tra l'elettronica, l'ambient, l'improvvisazione radicale può portare al paradiso jazz. Un musicista come Marcus Stockhausen sarà alla tromba e ovviamente agli effetti elettronici, insieme a Lino Capravaccina, anche lui musicista di ricerca, al vibrafono, Alireza Mortazzavi, al santur. Il santur è uno strumento da tavolo, praticamente a corde e percussioni, quindi uno strumento che veramente si allinea a queste sensazioni, portandoci in un altro. Chiude la formazione Luca Formentini alla chitarra, figlio di Karlheinz Stockhausen, che è stato uno dei più grandi e celebri compositori dell'avanguardia musicale del Novecento. Risponde a nome di Marcus, virtuoso della tromba, musicista dalla profonda sensibilità. Porta all'interno di un'esperienza musicale che si può definire assolutamente immersiva. L'anticipazione la diamo insieme a Marco Coppi, direttore artistico. Onore al merito per aver scelto questo nome in un eterogeneo programma di 5 serate. In questo caso, come vi ho detto, troveremo un aspetto di altri suoni che vanno a corredare una rassegna di primavera Paradiso Jazz Arci San Lazzaro assolutamente eterogenea e completa. Ne ho tratto anche un brano musicale, ascoltiamo quello che è stato il frangente di presentazione di inizio stagione all'interno di Jazz Live, e poi ascolteremo anche un brano di Marcus Stockhausen. A tra poco. Presentazione 16ª edizione del Paradiso Jazz, di rientro in diretta alle 12.07 minuti. Siamo giunti al terzo appuntamento. Già abbiamo dato qualche sospetto di presentazione fuori onda con alcuni paragoni. A me questo musicista ricorda tantissimo il norvegese Nils Petter Molvær, anche lui per ECM ha portato dei lavori tra il minimalismo, l'elettronica, gli spazi diffusi, visionario e allo stesso tempo tecnicamente preparatissimo. Questa è un'altra prima scelta dell'art director di Paradiso Jazz, Marco Coppi, qui con noi, e stiamo parlando di Marcus Stockhausen, che sento per la prima volta, ammetto. Avevo detto prima, nello spazio precedente della pubblicità, che questo cartellone è abbastanza ricco di figli d'arte. Questo è arte. E qui parliamo di Marcus Stockhausen, figlio di Karlheinz Stockhausen, sì, che è stato

La spazialità del suono sarà questa sera alle 21.30, un altro lunedì al Paradiso Jazz. Come vi ho detto, l'eterogeneità dei suoni, l'emozione e l'evocativo che c'è nelle note di questi musicisti è veramente qualcosa che scuote, che porta delle visioni. È una musica anche da vedere chiudendo gli occhi. Quindi altra serata per iniziare bene la settimana, oltre che la mattina con il Breakfast Club, alla sera con il Paradiso Jazz, dalle 21 e 30. Ecco, sapete che i concerti hanno sempre qualche motivo di posticipo, però l'orario, solitamente il Paradiso Jazz è molto puntuale. Io ringrazio Marco Coppi, direttore artistico per l'edizione 2024 e aggiungo, insomma, quello che avete sentito è stato un frammento, ha portato alle 12.06 di rientro in diretta. No, è un frammento ripreso dal Jazz Live, insomma. E lui è Nils Petter Mollvar, invece, a proposito di trombettisti. Già in mente avevo di fare uno speciale con Toshinori Kondo, Nils Petter Mollvar, Rob Mazurek, insomma tutti i musicisti che hanno fatto di queste note un'avanguardia, ecco, lo stanno facendo tra l'altro. Tra poco pubblicità, poi iniziamo con i magazine. Questa sera Paradiso Jazz con Marco Stockhausen, tra poco.